Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Sabato 16 agosto 1969. È da poco passato mezzogiorno. Ci stiamo dirigendo verso Bethel, piccolo comune della contea di Sullivan, nello stato di New York. Pare che ci sia un gran fermento da quelle parti. C'è un festival, una specie di happening musicale in cui partecipano alcuni artisti famosi e altri meno. Gli organizzatori sono quattro ragazzi di 20 anni, gente che non ha una grossa esperienza, ma sono persone ambiziose. Sono riusciti a contattare alcuni grandi nomi, hanno previsto una buona affluenza, circa 50.000 persone. Però qualcosa non deve essere andato come previsto, perché i giorni che hanno preceduto il concerto sono stati un po' convulsi. L'ubicazione è stata cambiata più di una volta e a un certo punto hanno smesso di vendere biglietti, chissà perché. Poi alcune strane voci hanno cominciato a circolare, i giornali hanno parlato di scontri e di giovani molto fuori dalle righe. Altri canali di informazioni, meno istituzionali, descrivono un oceano di persone che si è riunito per mandare un messaggio al mondo, un messaggio d'amore e di speranza. Sia quel che sia, dobbiamo arrivare lì, perché è lì che si trova il nostro protagonista di oggi. Dovremmo quasi esserci, anche se forse c'è qualche problema. Niente da fare. La strada è completamente bloccata, siamo fermi. C'è un uomo con un cappello da poliziotto davanti a noi. Un giornalista lo sta intervistando. Proviamo a capire se può esserci utile. Dopo quello che sapevo dalle normali fonti di informazione, ho avuto veramente una bella sorpresa. E voglio dire anche questo. Penso che il popolo di questo paese dovrebbe essere orgoglioso di questi ragazzi. A parte come si vestono o come portano i capelli, ma questi sono affari loro. Il loro comportamento, però, non può essere discusso. Non si può dubitare che siano dei buoni cittadini. È quasi sorprendente che lo dica un poliziotto. Io veramente sono un ispettore. Oh, mi scusi, la ringrazio. Ci siamo. Abbiamo dovuto affittare un elicottero per poter arrivare fino a qui, ma ne è valsa la pena, eh? Incredibile. Davvero uno spettacolo incredibile. Non si era mai vista una quantità di persone così in un solo posto per la musica. La gente sembra non finire mai. Le colline, i prati, persino le acque del fiume sono invase da ragazzi e ragazze. E se la vista non ci inganna, la maggior parte di loro è senza vestiti. A una prima occhiata non c'è traccia di scontri, nessun incidente. Tutti sembrano felici di essere qui, anche se è evidente che i servizi non sono adeguati e Dio solo sa cosa potrebbe succedere se qualcosa andasse storto. Ora proveremo a farci lasciare in un punto un po' libero. Ecco, ora ci siamo. Siamo a Woodstock. Abbiamo parlato con dei ragazzi. Dei cappelloni seminudi molto simpatici che ci hanno spiegato che il festival è cominciato ieri, ma non hanno la più pallida idea di quando finirà. Pare che ieri abbiano suonato per lo più artisti folk, Joan Baez o country come Joe McDonald. Si è esibito persino Ravi Shankar, il tizio indiano che suona il sitar. Adesso sono da poco passate le 2. Il concerto è ripreso. Sul palco c'è la Keith Hartley Band, il primo gruppo inglese a esibirsi. Ma non è che abbiano un grande impatto. C'è qualche applauso, ma la gente è distratta. Non è facile suonare qui, soprattutto per i meno famosi. Ma ora è arrivato il nostro momento, il motivo per cui siamo venuti qui. Sul palco stanno salendo degli altri musicisti. Saranno 6 o 7 almeno. Oltre ai soliti basso, batteria e chitarra, ci sono delle congas e tutta una serie di altri piccoli strumenti tipici della musica latina. Le percussioni partono e cominciano a far muovere la gente. La batteria e il basso seguono e di lì a poco tutti stanno ballando. Davanti al microfono c'è un ragazzo baffuto con una grande criniera nera. Sembra un po' Jimi Hendrix dopo un bagno nella candeggina. Sta armeggiando con una Gibson color ciliegia. Ed è lui che abbiamo seguito fino qui. Il suo nome è Carlos Santana. Ricordo che ero sotto l'influenza dell'LSD. Sai, mentre ero lì, la mia testa pensava: cavolo, perché ho preso l'LSD prima di uscire a suonare? Il manico della chitarra sembrava una specie di serpente elettrico che non riusciva a stare fermo. Ecco perché facevo quelle facce strane. Perché tentavo di fermare questo serpente per poter suonare. Il manico si muoveva in un modo e poi in un altro. E mi ricordo che nel frattempo pensavo: Dio, giuro che non lo farò mai più. Fai che riesca a suonare nella maniera giusta, è tutto quello che chiedo. Era il mio primo mantra. Dio, ti prego, giuro che non lo farò mai più. Non prenderò più quella roba. E poi il suono, la musica che calava su di me per poi passare attraverso il mio corpo, attraverso le mie dita, gli amplificatori, i microfoni, per poi dirigersi verso la gente il più lontano possibile e infine ritornare indietro. Sai, è una cosa che faceva paura. È così che la storia di Carlos Santana ha inizio, anche se non è la sua prima esibizione. Carlos ha iniziato a suonare qualche anno prima, ma quando atterra sul palco di Woodstock con la sua band, è ancora relativamente uno sconosciuto. Ed è lì che sboccia, mostrando al mondo il suo inimitabile rock latino. Ci saranno altre performance che rimarranno nel mito di quei 3 giorni e mezzo. Joe Cocker che urla a squarciagola per 8 minuti with a little help from my friends dei Beatles. Hendrix che furoreggia per 2 ore di assoli incredibili con tanto di inno americano. E Pete Townshend con i suoi Who che spacca la chitarra e allontana chiunque gli impedisca di suonare. E questo solo per citare i più grandi. Ma Santana ha fatto di più. Ha suonato trascinando la folla col suo ritmo indiavolato. Il 16 agosto 1969 a Woodstock, un messicano timido e riservato ha scritto in maniera indelebile il suo nome nel firmamento dei grandi chitarristi. Carlos Augusto Alves Santana. Mio padre mi ha insegnato l'arte della musica, mentre mia madre quella dell'impegno e della dedizione. Da piccolo mi piaceva l'idea di riuscire a capire come entrare nel cuore della gente, perché io vedevo come la gente guardava mio padre ed era adorato da tutti. Non ritardavo mai, non ero mai ubriaco, sono sempre stato molto presente e concentrato. Ho cercato di far sì che mia madre, mio padre e più recentemente mia moglie e i miei figli rispettassero tutte le bandiere. Con dignità e impegno. Non ci sono molte tracce di dannazione nel percorso rocchettaro del signor Carlos Santana. Un po' di LSD forse, qualche spinello, ma a quei tempi in certi ambienti è come prendere un bicchiere d'acqua. A pensarci bene, non è difficile da credere. Il piccolo paese del centro Messico dove nasce nel 1947 non poteva certo nascondere chissà quali tentazioni, anche se alcune sfumature ci sono. L'animo da vagabondo, per esempio. È un lato che Santana eredita dal padre, che è un mariachi e per lavoro porta la musica in giro. Poi la spiritualità che lo accompagnerà sempre, per non parlare del primo strumento che impara a suonare, il violino. Gli rimarrà appiccicata quella tecnica, allungare e mantenere le note. A chi empieza la patria? La patria comincia da qui. È il motto di Tijuana, piccola città al confine con gli Stati Uniti. Ma Tijuana non è solo l'inizio della patria, ma anche l'inizio del lungo pellegrinaggio musicale di Carlos Santana. Le città di frontiera sono diverse dalle altre. Non si tratta solo della mescolanza di lingue che risuona nelle strade, È la tensione, quella carica elettrica che si avverte nell'aria. E tutte le persone, tutti gli oggetti arrivano sfocati perché... perché nessuno vuole apparire in maniera nitida, ci sono troppi segreti, troppi angoli bui per poter illuminare tutto. E allora, invece che alla vista, ci si deve affidare a qualcos'altro. È così che Carlos Santana ha scoperto la musica che voleva suonare. Andavo spesso a casa di uno dei miei amici. Si chiamava Chichi. Era il bassista dei TJs, una delle prime band di Tijuana. Loro suonavano principalmente la musica di B.B. King, di Ray Charles, di Little Richard. Avevano uno stile molto particolare, specialmente il chitarrista, Javier Bartiz. La prima volta che sentì la musica di Jimmy Reed ero a casa di Cici e ricordo bene che effetto mi fece. La casa era molto sporca, sembrava che non ci fosse il pavimento, era veramente lercio. Il cielo di Tijuana è molto strano, è un po' funky, può mettere davvero paura e oggi sono sicuro ancora di più, ma... sentire quella musica chiusa in quel palazzo, sentire Jimmy Reed cantare Big Boss Man and You Got Me Running o Baby What You Want Me To Do, è come se a un certo punto fosse penetrato tutto in me e sapevo che la mia pelle era stata percorsa da un lampo perché mi sentivo un nero in tutto e per tutto. Potrei andare in Africa o a Chicago e non portarmi dietro niente perché tutte queste cose sono solo illusione. C'entra solo quanto profonda ti arriva la nota che senti. E voglio dirvi un'altra cosa. La gente di colore non ha il monopolio sul ritmo o sul feeling. La verità è che è un dono che hanno tutti gli esseri umani. Poi naturalmente c'è un magnifico destino. Irrompe verso la fine degli anni 60 a San Francisco, dove Carlos a un certo punto si sposta spinto dagli studi, ma con in testa solo l'idea di suonare. Si chiama Bill Graham. A quei tempi Bill dirige un club, il Fillmore West, che è la culla della scena musicale della East Bay. È lì che nascono e si sviluppano alcune delle band più innovative e famose del periodo, come i Jefferson Airplane, i Grateful Dead. Ed è lì che si incontrano Bill e Carlos. Bill Graham was a real architect. Bill Graham è stato il vero architetto di Santana. Lui vide qualcosa in me, in noi. Era molto diverso dalla stragrande maggioranza della gente di San Francisco. Ha investito molto in termini di energia, passione e soldi per noi. Sarò sempre grato a lui, come a tutti quelli che hanno creduto in noi e che hanno insistito con noi quando la maggior parte degli addetti ai lavori pensava: sai, chi diavolo è Santana? Lui era molto, non voglio dire calcolatore, molto immerso nel flusso che aveva creato per noi, per spingerci verso un pubblico sempre più vasto col passare del tempo, finché non arrivammo a Woodstock. Bill Graham ha passato metà della sua vita a fuggire. È il destino crudele e inesorabile di molti ebrei. Nato a Berlino, emigra prima in Russia e poi torna di nuovo a Berlino, in un orfanotrofio. Quindi viene trasferito in Francia con i nazisti costantemente alle spalle. Quando grazie a un miracolo viene messo su una nave per gli Stati Uniti, Bill sa che non rivedrà più né i genitori né alcune delle sue sorelle. Una volta approdato nel Bronx e integratosi non senza una certa fatica, viene mandato in Corea a combattere, dove riesce a uscire senza un graffio e con una medaglia al valore. Tutto questo nei primi 20 anni della sua vita. Bill Graham ne ha mille di vite, non c'è altro modo di spiegare quello che ha fatto. Ecco perché non ci stupisce ritrovarlo a San Francisco a metà anni 60, impegnato a gestire il locale più turbolento della città. Mi è capitato di riascoltare alcuni pezzi di quando ero molto giovane e mi rendo conto che avevo in mente un'idea folle. Cercavo disperatamente di suonare come Otis Rush o B.B. King e più ci provavo, più suonava come me. Credo che col passare del tempo, provando e riprovando in qualche modo, io abbia creato una specie di vocabolario che era molto diverso da B.B. King e altri. E questo perché mi trovavo esattamente nel mezzo tra lui e Tito Puente. Cioè io suonavo note alla Wes Montgomery, roba così, perché l'ascensore per il successo era molto affollato e la maggior parte della gente proveniva dallo stesso posto, con un blues suonato molto forte, davvero forte. Io volevo invece che ci fosse più sassofono, magari un violino. Un sassofono e un violino con della musica rock in sottofondo. È chiaro che Santana non ha intenzione di seguire la massa, ma vuole creare qualcosa di suo, anche se magari non ha ancora la piena coscienza di quello che sta facendo. Ed è proprio in questo piccolo spazio che Bill Graham si inserisce con tutta la potenza del suo animo psichedelico e vagamente zigano, dando fiducia al messicano e guidandolo nella ricerca di una carreggiata in cui immettersi. Penso che Bill Graham sia stato uno dei miei primi insegnanti, da parte mio padre. Lui mi diceva: Carlos, io so che ti senti un po' imbarazzato. So che tu hai sempre in testa la spiritualità, ma la gente è coinvolta dalla tua musica. E in più la tua musica è la voce della gente invisibile, la voce di tutta quella gente che non ha una bandiera con cui identificarsi e che non hanno nessuna speranza di essere riconosciuta. E così, quando entrammo in scena, ci portammo dietro tutti. Non lasciamo nessuno indietro. Volevamo rappresentare l'intera razza umana e il suo cuore per essere una sola famiglia. I magnifici destini. Le cose che cerco quando suono sono il feeling del sound. Cercare di trasformare ogni concerto in un grande abbraccio. Un abbraccio reale, genuino, sentito con il cuore. Queste sono le cose che cerco. Sì, potrei imparare a suonare più veloce. Non è mai troppo tardi per questo tipo di cose. Ma il mio obiettivo è mantenere e conservare la velocità di penetrazione del cuore. Sono pochi quelli che suonano veloce e profondo. Questo è quello che dice il vocabolario. Suonare veloci e profondi è per pochi, perché bisogna fare molta pratica per imparare ad ascoltare il proprio cuore. Se vai troppo veloce, non puoi pensare di ascoltare il tuo cuore. E come fai? Ma se rallenti un attimo è come dire: io vi amo con tutto il mio cuore, e prima che tu te ne accorga la gente del pubblico sarà in lacrime, si alzerà in piedi per tributarti una standing ovation, riderà, ballerà. E questo è tutto il vocabolario insieme, tutto, e queste cose non le puoi imparare da un libro. Carlos Santana crede parecchio in quello che fa. Nel 1970 esce Abraxas, forse il numero uno della produzione di Santana. Pubblicato un anno dopo Woodstock, con dentro rock, salsa, blues e jazz, c'è soprattutto lo stile, il suono unico e inconfondibile che caratterizzerà tutta la carriera di Carlos Santana. Ci sono Samba Pa Ti, Oye Como Va, Black Magic Woman. Ci sono gli overdrive di chitarra e organo e naturalmente le percussioni, anche se non si capisce bene come tutta questa roba sia finita lì, tutta insieme. C'è anche Bill Graham che sorride in un angolo. Abbiamo un bisogno della musica dei neri, della musica africana, perché hanno sentimento, hanno feeling. Ed è importante che gli diamo credito, anche parlandone, perché costituisce l'85%, se non il 90%, della musica che ognuno crea. Tutto il resto è dato dalla tecnica, si può impararla da un libro, oppure esercitandosi, oppure ancora guardando un video, cercando di replicare alcune cose, ma il feeling è qualcosa di diverso. Volendoci spostare, è come imparare a fare un'ottima salsa. La salsa deve essere una delizia insuperabile per tutti. Niente da fare, è impossibile. Anche volendo, anche impegnandosi, cercando di concentrarsi solo sulla musica, si finisce sempre per dover fare i conti con un aforisma, una metafora pacifista, umanista, un piccolo buffetto zen. Separare Carlos Santana dalla sua radice spirituale è praticamente impossibile. Allora, tanto vale buttarcisi dentro. Fate un bel respiro. E intanto magari ci godiamo un po' di musica. E tenetevi pronti, perché il viaggio è di quelli che lasciano il segno. C'è l'Oriente nel mirino. Mia madre dovette sequestrarmi la chitarra per mesi perché stavo tutto il giorno a suonarla e andavo avanti nonostante mi sanguinassero le dita. Ecco, partiamo da lui, da John McLaughlin. Non vi preoccupate se non l'avete mai sentito, non è un nome di quelli che vanno per la maggiore. Ed è proprio questo il fascino di John McLaughlin. Se tu vai a chiedere agli addetti ai lavori, che ne so, a Miles Davis o a Paco De Lucia, o anche Corrado Rustici, tanto per rimanere in Italia, rimarresti stupefatto. Si parla di uno che è considerato forse il miglior chitarrista di tutti i tempi. Mica robetta. È solo un po' fuori dallo Star System, tutto qui. Un giorno, mentre suona insieme a uno dei suoi tanti gruppi, Miles Davis lo guarda negli occhi e gli dice: «Go ahead, John. Vai avanti da solo, John. Non hai più bisogno di me». E John non se lo fa ripetere due volte. Era dal 1969, da quando aveva fatto quella jam session con Jimi Hendrix, lui con l'acustica e Jimmy con l'elettrica, che sapeva che le cose a un certo punto sarebbero cambiate. È così che John mette su la Mahavishnu Orchestra. Ringrazio Dio che mi ha dato la benedizione di conoscere John. Soprattutto se penso a come ci siamo incontrati. L'ho incontrato allo stadio zero, al principio della rivoluzione di coscienze del genere umano. Erano gli stessi tempi del Black Panthers, di Martin Luther King. C'era questo locale che si chiamava Slugs, dove suonavamo con Tony Williams. E quella musica è ancora la musica che ha dato il via alla musica del futuro. C'era Joe Satriani, per esempio, e un sacco di altri musicisti incredibili. Tutto questo universo musicale era costruito con l'obiettivo di tirare fuori una musica che non sarebbe mai invecchiata. Amo John perché il modo in cui ci incontrammo sembrava un volere divino. Sì, è stato il destino. Esatto. Amiamo John Coltrane, Wayne Shorter, e quando ami loro, ami Miles Davis, allora sei dentro perché è una specie di club. E se non ami questo tipo di artisti, allora vai pure da un'altra parte. Non è difficile intuire perché John e Carlos siano diventati amici. Hanno la stessa passione, impugnare la chitarra e metterci l'anima, gli stessi idoli, e in più hanno la stessa visione del mondo, con un lungo bagno caldo nei vapori della spiritualità e un sorriso per ogni evenienza. Quando si conoscono capiscono subito che il rapporto andrà al di là della semplice collaborazione tra colleghi. Ci pensa John a mettere subito le cose in chiaro. Porta Carlos al Palazzo delle Nazioni Unite per farlo assistere alla meditazione del maestro spirituale Sri Shinomoi, lo stesso che aveva ribattezzato John Mahavishnu, il nome che poi è andato a finire nella sua orchestra. Così come per McLaughlin, anche per Santana l'incontro col maestro è folgorante. Sono nato nella religione indù, ma ora la mia sola religione è quella di amare Dio e di essere al servizio di Dio. L'amore di Dio abbraccia tutte le religioni, cristianesimo, induismo, ebraismo, islam e anche le altre. Sono parole come queste che trascinano Carlos nel percorso spirituale che sognava da tempo. Parole che il maestro Sri Shinmoy negli anni 70 trasferisce dall'ashram dell'India meridionale al territorio statunitense dove si reca per fare proseliti. Il percorso che John e Carlos intraprendono è fatto di purificazione, in cui la sottomissione al divino è il primo passo verso la totale fusione tra il finito e l'infinito. In un attimo Carlos, come John, diventa discepolo con il nome di Devadip, ovvero lanterna e occhio di Dio, e la loro musica si unisce sotto l'ombrello della fratellanza. La lanterna di Dio si fa un po' prendere la mano, per dirla tutta. La svolta spirituale di Santana presto si rivela un affare complicato. Non tanto per la musica, in cui Carlos continua a mischiare il suo timbro latino con il free jazz o il fusion, o persino il funk, quanto per la vita di tutti i giorni. Gli insegnamenti del maestro, spesso, si trascinano dietro una serie di imposizioni per la vita terrena che paiono quantomeno discutibili, come per esempio il divieto di mettere su famiglia. L'impegno che Sri Shinmoy richiede non è esattamente compatibile con la vita di un musicista rock, per quanto votato alla misticità possa essere. L'Oriente ha fascino, ci hanno provato anche i Beatles, ma di qui a pretendere che uno finisca di suonare alle 2 di notte e alle 3 si alzi per meditare, beh, ce ne vuole. L'illuminazione nella musica significa arrivare a comprendere che per quanto bravo non sarai mai abbastanza un buon musicista. Bisogna prendere e accettare il piacere della musica e godersi questo dono. Tutto il mondo possiede questo dono, ma poca gente si prende il tempo necessario per svilupparlo con devozione e disciplina. Perché bisogna avere disciplina quando inizi, per sentirti poi libero. Se non hai la disciplina non sarai mai libero, perché sarai sempre preso dalla lotta. Il viaggio spirituale di Carlos attraversa gli anni 70 e modifica la sagoma del chitarrista. A un certo punto le cose si fanno veramente difficili, la figura di Sri Chinmoy diventa ingombrante per il messicano e viceversa, e nessuno capisce più dove sia la verità. Per Santana non c'è alternativa che mollare il maestro, rimettere un po' di coce a posto e concentrarsi sulla musica. Well, no one told me about her. How many people cried? But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. Con l'arrivo degli anni Ottanta inizia per lui un periodo fatto di luci e ombre. Nessuno vuole mettere in discussione il suo talento, quello rimane lì, non si può negare. E non è che vengano a mancare gli stimoli o i riconoscimenti. L'esibizione a Live Aid di Bob Geldof, per esempio, è un successo. E in studio incontra gente come Buddy Miles, John Lee Hooker, Aretha Franklin. Ma il guaio è che il mondo sembra aver preso un'altra direzione. La musica pop irrompe nelle classifiche e nelle casse delle major. Il punk ha distrutto tutto quello che ha incontrato. L'elettronica comincia a mettere il naso fuori e via discorrendo. Che pretese può avere un rocchettaro che si veste fuori moda con i toni troppo sgargianti del suo paese? Sarà una domanda a cui, volente o nolente, Carlos Santana prima o poi dovrà dare una risposta. Sicuramente è molto importante mantenere e conservare la passione. Se provi a pensare alla prima volta che hai visto Jimi Hendrix suonare, cercare le note, o Steve Ray, è come se ci fosse un suono, anche se il volume è a zero. Lo stesso di Coltrane, Miles, Bob Marley, gli immortali. C'è proprio un modo di suonare, una postura quasi che hanno, e tu sai che non è una cosa che può venire con la pratica di fronte a uno specchio. È un suono che proviene da tutto il tuo corpo, da ogni parte. Non è un suono che proviene solo dalle mani. I Magnifici Destini ha deciso di abbandonare le lezioni di chitarra, perché come dice il signor Santana, puoi stare davanti allo specchio quanto vuoi, ma se riuscirai a fare parte degli immortali te ne accorgi subito dal suono. Lui in quel girone ormai ci è entrato di diritto da un pezzo, da quando è salito sul palco di Woodstock mostrando al mondo la sua bravura. Carlos Santana da allora viaggia su una nuvola spirituale che lo fa galleggiare sopra il mondo, anche se per un attimo la sua vita è schizzata verso l'alto, spinta da John McLaughlin e dal maestro Sri Chinmoy, e l'ossigeno ha cominciato a mancare. Poi a un certo punto tutto è tornato alla normalità. Cosa ci si può aspettare da uno che ha avuto praticamente tutto dalla vita? Che provi a cambiare, che continui a mordere le caviglie? Santana avrebbe potuto fare tutto questo, specialmente verso la fine degli anni Ottanta, quando la distanza tra la sua musica e il business che gli gira intorno sembra praticamente incolmabile. Nel 1994 rimane addirittura senza contratto discografico. È solo un caso, ma è emblematico. A questo punto Carlos fa quello che ha sempre fatto quando si è trovato in difficoltà. Si rifugia nella sua spiritualità e attacca con i suoi mantra. Una cosa è essere famosi, un'altra è far sì che la gente ti voglia bene veramente. Santana ripete con costanza il mantra finché le vibrazioni non raggiungono Clive Davis, di mestiere produttore. Un altro come Bill Graham, con l'occhio lungo in fatto di musica, anche se con una vita un po' meno avventurosa. Clive guarda in faccia Carlos e gli dice: «Basta, immortali, è ora di suonare con un po' di gente giovane». Davis comincia a guardarsi attorno, finché il suo sguardo non si posa sull'ultimo magnifico destino di oggi. Il suo nome? Rob Thomas. Carlos è stato molto importante per me. Direi fondamentale, soprattutto perché mi ha insegnato la differenza che c'è tra essere una celebrità ed essere un ottimo musicista. Non sappiamo bene a chi dare il merito, ma il jolly Rob Thomas è davvero una delle intuizioni migliori che si potessero avere per Carlos. Quando si conoscono, Rob è ancora un timido e giovane songwriter che ogni tanto si diverte a esibirsi, ma che per la maggior parte del tempo scrive e scrive bene, visto che a lui si rivolgono gente tipo Jagger, Tom Petty o Willie Nelson. Ma per la stragrande maggioranza dei non addetti ai lavori, è un ragazzo semi sconosciuto. Eppure quella voce ha qualcosa. Ricordo che Carlos mi chiamò, erano le 10 del mattino, e mi disse: «Sai, ho questo sogno che ti riguarda. Ci sono delle cose buone che potrebbero succedere, ma ci sono delle forze oscure che potrebbero mettersi in mezzo. Devi raggiungermi il più presto possibile». Rob Thomas deve essere uno sveglio, perché se ricevi una telefonata del genere al mattino, come minimo pensi a uno scherzo. E invece no, non c'è niente da scherzare. Rob viene arruolato insieme a Eagle Eye Cherry, Lauryn Hill, Wyclef Jean e Derek Clapton, perché un immortale ci vuole. E in un attimo viene fuori un disco, un concept album. Molti temono il suono un po' debole e un po' piegato su se stesso degli ultimi tempi, ma niente di più lontano dalla verità. My life to bet on studio. L'album Supernatural è, come dice il titolo stesso, qualcosa di sorprendentemente sovrumano. Lo è innanzitutto nella forza, che mantiene anche nelle esibizioni live, in cui Carlos è un maestro. Lo è anche nella freschezza. Santana tende a lasciare il palcoscenico alla maggior parte dei musicisti che collaborano con lui, cercando di adeguare o di mescolare il proprio stile con la musica degli altri, sia essa hip hop, rap o quant'altro. È sovrumano anche e soprattutto per la gran quantità di singoli che ne vengono estratti. Ma se dobbiamo sceglierne uno, allora puntiamo su Smooth e sul vocione profondo di Rob Thomas, che costringe Santana a rallentare un po' i ritmi, in una miscela di potenza e profondità riunite in un crescendo che culmina con un sontuoso assolo di chitarra. Il brano è una pedata rifilata al mondo discografico, piazzandosi al primo posto. Il vecchio leone non ha smesso di ruggire, come si dice in questi casi. Recentemente ha pubblicato un album in cui si confronta con alcuni dei grandi pezzi rock di tutti i tempi. Sunshine of Your Love, Whole Lotta Love dei Led Zeppelin, Black in Black degli AC/DC, Smoke on the Water dei Deep Purple. Una specie di omaggio al genere che ha saputo innovare grazie al suo stile. In attesa di cavalcare le sterminate praterie celesti del mito, non resta che continuare a suonare le note del cuore, con gli occhi chiusi e l'anima che si libra in volo verso l'infinito. Todos tenemos la luz. Ma sì, ma tutti noi abbiamo la luce e l'amore. La verità è che a molta gente manca la fede, la consapevolezza di poterlo condividere. Io ho avuto molta fede fin da piccolo perché ho più amore che paura dentro di me. Ah, sono le uniche cose che esistono nel nostro mondo. Amore e paura.